Palla Spicchi con Carlo Genta. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ma bisogna che si tocca con un po' di dignità, con un po' di anima, cazzo, nessuno fa un salto, un fallo con la palla lì. Facciamo cazzotti almeno. Dai. Ma che cazzo avete dentro? Some sadness that we're going to recommend this to the committee because this is a lockout has a very large impact on a lot of people. Io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. Mi riferisco al fatto che senza entrare nel merito della decisione, per carità, ci si comunica la missione di un club a 15 giorni dall'inizio del campionato per una decisione dell'Alta Corte di Giustizia. Io credo che questo qui sia il termine, come ho avuto già modo di dire, tardivo sotto il mio punto di vista. Quando ritorno a Reggio Emilia è divertente per me, perché quando mi vedono e solamente dicono Kobe è ritornato e basta, non sono Black Mamba. Dopo un'estate difficile ai limiti dell'impossibile, ora sul sipario, sulla stagione dei canestri e su quella di Palla a Spicchi. Come sempre, ogni venerdì, qui a far compagnia a tutti gli sportivi e soprattutto a tutti gli amanti del basket. Non esiste Palla a Spicchi senza coach Dan Peterson. Ciao coach! Ciao amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Sognavamo Kobe, ci troviamo con un campionato con tanti problemi, un po' impopolare, ma anche, per paradosso, il più interessante degli ultimi anni. Sì, esatto, ma vediamo se le cose, perché delle operazioni Kobe ovviamente è una grandissima idea, però come in tutte queste grandi operazioni, mille problemi, mille inghippi, mille imprevisti, quindi se riescono a portarlo in porto hanno fatto un capolavoro, a dir poco. Sì, anche se riescono a portarlo in porto, volevamo, cioè Kobe one shot, a me non piace. Non è fascia protetta, però non sono d'accordo. Bologna voleva, il basket italiano volevano un pezzettino della sua anima per un mese e mezzo. Lui offre il suo corpo forse per un amichevole. Questo non mi piace. È meglio 10 partite, assolutamente sì. Questa di una partita a te piace? Una partita. Preferirei che non lo facesse magari, però questo non è una critica, perché si sono compromessi per farlo, quindi ovviamente devono proseguire, ma era molto meglio 10 partite, o almeno fino alla risoluzione della lockout, della serata dell'NBA, cioè una cosa del genere, non una partita solo, cioè avrei preferito vedere lui qui. Contro tutte le squadre, se è possibile, fare un girone di andata, invento io cosa, così tutti possono dire ho giocato contro Kobe, questo è il mio sogno. Anche il mio coach, sono 5 anni che diciamo Milano antidoto contro Siena, forse finalmente potrebbe essere vero. Milano, Sergio Scariolo ha fatto, come scritto sulla Gazzetta questa mattina, un capolavoro. Nel senso che in un mese ha fatto una squadra da Eurolega con tutti i ruoli coperti, poi ciliegie sulla torta ha preso Danilo Gallinari, quindi è una squadra molto seria, si era anche pure rafforzata, e occhio a Cantù che in tutto silenzio ha fatto una squadra veramente forte. Mi sembrano queste tre squadre veramente al vertice, ma come ha dimostrato Cantù in finale, si può competere contro Siena. Cantù ha fatto un capolavoro finale pur perdendo, ok? E Milano quest'anno lo farà altrettanto, questo è sicuro, senza fare pronostici, senza dare il peso della favorita a nessuno, cioè questa è la realtà, sono tre squadre formidabili. Sì, tu l'hai scritto stamattina, Sergio Scariolo ha avuto un'estate incredibile, a Milano ha fatto una squadra notevole in un mese, con la Spagna ha vinto l'Europeo, pochi altri allenatori hanno mai fatto altrettanto in tre mesi. Mai, io una cosa così, in questi tempi, poi magari nei miei tempi, anni 80, ritornavano 8 giocatori, prendeva 2 americani, no, lui ha preso 8 giocatori più Danilo, ok, quindi questa cosa c'è ad altro livello. Poi tu mi dici una squadra di retrocessione cambia 9 decimi della squadra, sì, però stanno cambiando giocatori intercambiabili, questi non sono pezzi intercambiabili, questi sono sono ottimi giocatori, quindi un grande lavoro da parte di Sergio, assolutamente. Coach, ormai ci conosciamo da molti anni, voglio farti una domanda personale. La scorsa stagione è stata quella del tuo ritorno, cioè la vera notizia, la vera bomba della scorsa stagione è stata quella del tuo ritorno. Che cosa ti ha lasciato personalmente la scorsa stagione? Io penso che l'infortunio a Jonas Mačiulis ci ha tolto la possibilità di disputare almeno la finale, però è stata una grandissima, bella esperienza. Mi sono innamorato della squadra, più che altro della società, che ero già innamorato, cioè proprio grandissimo, con grandissimo affetto per loro, e poi dentro di me, per tutti gli infortuni, i problemi che abbiamo avuto, il fatto che sono subentrato, io penso di aver fatto un lavoro, parlo per me personalmente, tipo la banda Bassotti 78-79, cioè abbiamo estratto da loro il massimo di quello che c'era da prendere. Penso, ero molto dentro di me orgoglioso, soddisfatto del lavoro, meno felice per il risultato finale, perché volevo andare almeno a disputare la finale. Sì, poi con la banda Bassotti avevi messo le basi per un ciclo incredibile del basket italiano, e in questo caso i cicli non esistono più, esattamente come le bandiere. Invece Siena con Stone Rock e compagnia ha fatto un ciclo. Certo, con Stone Rock ha fatto un ciclo. Coach, per finire, nel tuo imperdibile Nessuno me l'ha chiesto, però hai scritto molte di tutte queste cose oggi sulla Gazzetta, ma hai scritto anche che hai parlato prima di amore, che il tuo nuovo amore è Courtney Cox. Ragazzi, chi non è innamorato di Courtney Cox, ok? Quindi lei è veramente, ha 47 anni, lei è una cosa spettacolare, sensazionale, ma come è scritto nel paragrafo dopo, non ho mai dimenticato i miei amori, che loro non erano innamorati di me, io di loro, capito? È diversa la cosa, ok? Però i miei sogni del liceo non ne dimenticherò mai. Come l'impareggiabile Virginia True, fantastico. Ah, Virginia True, ragazzi, non parliamo, mi stai facendo batti cuore a fare il nuovo. Altro che Kobe Bryant, caro Coach. Altro che Kobe Bryant, impareggiabile Virginia True, assolutamente. Grazie Coach, ci sentiamo venerdì. Ciao Carlo, amici sportivi, ciao a tutti. Grandissimo Coach, adesso ci fermiamo per il traffico, ma subito dopo rientriamo con un ospite che ci raggiungerà qui in studio per continuare a parlare di basket anche con voi. 800 24 00 24, Kobe Bryant per una notte. Vi piace o no? A me no. Palla spicchi. Eccoci tornati, dunque, Franco Piantanita in redazione, Mauro De Angeli in regia. Come promesso, mi ha raggiunto un ospite. Attilio, oh Attilio De Giovanni, io canto il tuo nome, parola che mi apre le porte del paradiso, io non ti perderò mai, lo vogliano gli dèi. Non è Attilio De Giovanni ma Attilio Caia, buongiorno Coach, grazie. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Non te l'aspettavi, porca la miseria, di Benigno, no. La tigre e la neve. Bene, ottimo. Allora, non mi interessa Kobe per un amichevole, scrive Luca. Paolo da Prato c'entra il problema, Kobe per una notte, una sveltina insomma. Esatto, questo sarebbe il senso, insomma, ho usato anch'io questa immagine. Bologna voleva un pezzettino della sua anima, cioè che partecipasse almeno alla nostra Lega per 10 partite, per 15, per un girone sarebbe stato un sogno, come diceva prima Coach Peterson. Kobe contro tutti e tutti a dire ci ho giocato contro nel campionato italiano. Sarebbe stato parte della nostra Lega un amichevole, francamente, in un giovedì notte di metà ottobre interessa poco a tutti, forse anche a Sabatini. Poi dopo, anche perché si era fatti la bocca, a un certo punto ci si sperava, era partita magari all'inizio un po' difficoltosa, con grande scetticismo, poi strada facendo invece, vedendo anche che i problemi del lookout non si stavano risolvendo, quindi ci si stava anche abituando all'idea di avere Kobe Bryant in Italia per 40 giorni, 50, quello che potesse essere, tutte le varie squadre pensare anche di poter giocare così a livello mediatico, è stata una cosa molto importante, e certo, come obiettivamente, rimane poi l'amaro in bocca per quello che poteva essere un estate, ma io penso anche che magari lo stesso Kobe Bryant abbia un po' anche lui usato questa possibilità qua per venire in Italia, per magari forzare un po' la mano di là nel contratto con i club, con i proprietari americani. Visto? Tutti abbiamo detto Sabatini ha usato Kobe Bryant, o la pallacanestro italiana ha usato Kobe Bryant, l'immagine di Kobe Bryant, magari il contrario, magari dici tu. Anche il contrario, perché, perché visto che partecipava ultimamente, partecipava lui direttamente con i Bayern alle trattative per il rinnovo contrattuale di là, e facendo vedere che lui era pronto, cioè che potesse venire in Italia, diciamo che se non l'ha usato gli ha fatto buon gioco far credere questo. Tu da che parte eri in tutta la polemica che si era innescata, e facciamo il calendario su misura per Bologna e la regolarità dei campionati e tutte queste cose? Cioè, secondo me dall'arrivo di Bryant ci avrebbero guadagnato tutti un pochino, Sabatini più di tutti, ma era giusto perché è quello che ha messo in piedi un'operazione che a nessun altro sarebbe realisticamente venuta in mente. Sono d'accordo, anche perché poi dopo magari è diverso il discorso di squadre magari come Siena, come Milano, che magari hanno l'obiettivo fare la stagione, fare il risultato, vincere il campionato. Bologna realisticamente sa che non è che possa vincere il campionato, quindi di conseguenza avere Kobe Bryant per 20, per 10-15 partite, quello che potesse essere, era un avvenimento talmente importante per loro, e non gli avrebbe procurato nessunissimo problema, e sarebbe stato di riflesso una bella cosa per il basket italiano, perché avrebbe avuto un grande rilancio, un grande interesse, il basket giocato sarebbe aumentato di livello, e poi magari dietro Bryant chissà che qualcun altro non avesse seguito quello, perché lui poteva essere un buon viatico, quindi assolutamente una cosa di grande. Ripeto, peccato che non si è potuta concretizzare, o quantomeno fino adesso non si è ancora concretizzata, e in questo momento dove ci sono altre cose non positive per la pallacanestro, quella sarebbe stata veramente una cosa che avrebbe cancellato tutto il resto. Sì, quantomeno che avrebbe portato non c'è niente di male nel tirarsi addosso i riflettori e l'attenzione, insomma, non è il demonio l'interesse mediatico che poteva crearsi intorno al basket italiano e non soltanto alla Virtus Bologna. Petrucci non la pensa così, ne ha parlato poco fa, dicendo sul possibile arrivo di Kobe nel campionato italiano hanno parlato tutti, io no, ho molta stima di Sabatini, lo rispetto, però ritengo che l'immagine del basket italiano non sarà arricchita dalla presenza di un fenomeno. Ma come non sarà arricchita dalla presenza di un fenomeno? Non voglio creare ulteriori problemi rispetto alla pallacanestro, ne ha già tanti, rispetto le scelte, rispetto chi è contento, io rimarrò isolato, dice Petrucci. Non dico che sono contrario, però capirete il mio punto di vista. Io non lo capisco, caro Presidente. Oggi le federazioni sportive hanno bisogno di regole certe, di tranquillità, c'è un limite a tutto. Secondo me non ci devono essere limiti ai sogni, per la pallacanestro italiana soprattutto. Non lo so, rimarrò isolato io. No, beh, lui ha ragione per quanto riguarda le varie normative, i vari pasticci che si sono creati con 17-15 ogni anno, discutere uno straniero in più, uno straniero in meno, su quello ha perfettamente ragione, e anche la nazionale ne risente di queste situazioni. Dopodiché a parte forse il discorso Brand, magari anche il presidente Petrucci è stato un po' rammaricato per quello che ultimamente è successo con la pallacanestro, non ultima la problematica arbitrale. Veramente, allora lui che è un grandissimo appassionato, grandissimo tifoso anche della pallacanestro, un po' amareggiato per quello, allora questa amarezza lo coglie anche sul giudizio operazione Bryant. Ha capito poco anche un ascoltatore che si chiama Moreno, il contratto di Bryant è un insulto sia per una che per 10 giornate, non trovo niente di insultante nel fatto che superstar guadagnino super cifre, questo accade in tutto il mondo e non solo nel calcio. Nel calcio, nello sport, accade nel cinema, accade nell'arte, accade in molti settori in cui ci sono prestatori d'opera infungibili. 800 24 00 24, c'è Giuseppe da Caserta Giannina, ma voglio sentire la vostra voce su queste questioni, sul campionato italiano che sta per partire tra poco, vorrei anche un po' parlarne, perché non c'è solo il sogno Kobe Bryant, c'è un campionato che, come dicevo prima, ha avuto una genesi molto difficile, che parte con tanti problemi, che è anche un film impopolare se vogliamo, ma che è il più interessante e forse il più equilibrato degli ultimi anni. 800 24 00 24, Giuseppe da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Due domande. Prego. Una, forse Kobe Bryant sarebbe stato più interessato a fare un'operazione che fece Milano tanti anni fa, a metterlo come straniero di coppa. Certo, Bologna non fa l'Eurolega, però forse era un peccato non vederlo giocare nel campionato italiano. Straniero di coppa per la Virtus era dura. No? Cioè, poteva essere straniero di Eurolega. A proposito, questo è un altro filone. Chissà che Eurolega vedremo e potremo vedere, perché non è ancora finita. I due Gasol che si stanno allenando con il Barcellona, e c'è Kirilenko al CSKA di Mosca, c'è Rudy Fernandez al Real Madrid, c'è il mio amico Attilio Caia che mi diceva che il Real ha fatto un'offerta anche a Novischi. Pensate un po', quindi immaginatevi che stagione potremmo vedere. Ovviamente tutti a remare contro l'accordo, lo sblocco del lockout, che si fermino per un anno e ci lasciano sognare anche per una stagione sola. Dica. Poi volevo pensare, che ne pensava del nuovo roster della Juve Caserta, totalmente rinnovato, con questo Smith eletto miglior giocatore turco l'anno scorso. Qui giro la palla ad Attilio Caia, così è un'opinione senz'altro più autorevole della mia. Beh, insomma, una squadra che dall'inizio è partita con l'obiettivo chiaramente di fare una squadra da battaglia, una squadra per poter riuscire a star lontano più possibile dalle zone basse della classifica. Ha preso giocatori solidi del campionato italiano come Collins, lo stesso Righetti e Maresca, sono giocatori che possono dare una mano. Questo Flescher, che l'anno scorso giocava a Teramo, si è rivelato uno dei giocatori più solidi di Teramo, quindi possa dare una mano assieme a Donnerkamp. Tutta una squadra basata un po' su un grande spirito, e Caserta che ha un ottimo fattore campo, che grazie al suo caloroso pubblico penso che possa rimanere lontano dalla zona bassa e fare quei punti che le servono soprattutto in casa per ottenere questo obiettivo. Tanto io giro a tutto il popolo, anche quello della rete, di Facebook e di Twitter, pagina Facebook di Palla Spicchi, non solo di A Tempo di Sport. Vabbè, come per una notte vi piace, è una prima domandona. La seconda che giro ad Attilio Caia è Milano, è facile, Milano ha finalmente raggiunto Siena dopo questo lungo inseguimento oppure no? Si sta avvicinando, si è avvicinata, ha fatto delle scelte molto importanti, perché ha cambiato completamente il roster l'anno scorso. Giocatori che erano sotto contratto non sono stati tenuti, non sono stati riconfermati, quindi è stata una partita, una squadra ex novo, con l'esperienza di Mancinelli e Rocca della stagione precedente, e a cui si sono aggiunti i giocatori che hanno fatto spesso ultimamente le Final Four di Eurolega, e parlo di Nicolas e di Fozis, parlo di Borussis, Ayrton le ha fatte l'anno scorso con Siena, Omar Cook, un playmaker estremamente interessante, non è arrivato alle Final Four di Eurolega ma ha fatto molto bene nella Lega Spagnola, quindi una squadra che ha buone possibilità di arrivare ad altissimo livello. Altissimo livello vuol dire superare Siena. Ha bisogno del tempo, perché chiaramente, certo, anche sicuro, con il primo punto di Sergio Scariolo è stato anche quello un'operazione estremamente azzeccata, estremamente positiva. Sergio è un grande della pallacanestro europea, e quindi ha fatto, con lui sono cambiate le cose, lo staff, c'è uno staff di alto livello, quindi tutto è stato fatto, però il tempo, cioè Siena ha 5 anni di vantaggio, sicuro, 5 anni di vantaggio, e sono cose che non si possono comprare, e quindi partire in corsa, e non dico che ci voglia tanto tempo, però un pochettino di tempo paura che ci voglia ancora. Io qui la dico grossa, ne dico due grosse, così poi mi rispondete. In questo momento Milano come roster è più forte di Siena, ovviamente compreso Danilo Gallinari, la prima, e la seconda sui campionati. Si diceva prima di Petrucci, delle certezze, delle regole, tutte queste cose. Io vorrei un campionato, sogno, visto che tanto siamo a quel punto lì, sogno un campionato di Serie A elitario, magari 14 squadre, non 17 come quest'anno, 18 come sarà l'anno prossimo, eccetera eccetera. Un campionato di Serie A elitario e totalmente deregolamentato, si prendono i giocatori con qualunque passaporto, conta lo spettacolo, conta l'intensità emotiva, conta la bellezza in un campionato così. Se c'è la possibilità di prendere una superstar NBA per 3 partite, la si prende. Insomma, professionismo allo stato puro. Abbiamo Francesco da Padova in linea, ma io ho anche la borsa. Francesco, buongiorno. Buongiorno, ecco, mi ha anticipato nei concetti, ma fondamentalmente era questo che volevo dire. Sono preoccupato, qui faccio la domanda, su quali sono le possibilità di Petrucci di intervenire a rovinare una situazione che, come dice lei, fa solo che ben sperare, perché io giocavo a basket da giovane, ho giocato anche a buoni livelli, e non credo che un italiano debba aver paura di chi viene. Chi viene ti può solo insegnare, ti può solo spingere a giocare meglio, e questo chi fa sport lo sa, non può temere l'extracomunitario o chi viene da lontano. No, appunto, intanto veramente si prospetta non soltanto un campionato italiano, ma un campionato europeo incredibile. Io spero che vada a buon fine. Ecco, io spero che arrivino tutti e che ne arrivino il più possibile, insomma, perché la pallacanestro in generale, ma quella italiana in particolare, ha bisogno di respirare. Il problema in questo momento è respirare e sopravvivere. Quindi, se arriva dagli Stati Uniti una bombola d'ossigeno di quelle potenti, ben venga. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre qui vicino a me stavamo chiacchierando, coach Attilio Caia, ma abbiamo anche diversi messaggi sulla nostra pagina Facebook, uno bello è questo sulla questione Kobe Bryant. Paolo Visentin che scrive: brivido, evento, folla, stella cometa, clown, io c'ero, isteria, profanazione dello spirito del gioco, marketing, vendere l'anima al diavolo, tutto mescolato insieme. Questo sarebbe l'arrivo di Kobe Bryant. Daniele da Bologna non è d'accordo con me, ma va bene così naturalmente, anzi può essere uno spunto di ampie discussioni. Noi regolamenti ci vogliono, una deregulation completa non aiuta i tifosi ad affezionarsi alle squadre, quindi al gioco stesso, perché invece così ci affezioniamo un casino alle squadre che cambiano tutte le volte e devono sottostare a regole che permettono ai giocatori italiani di guadagnare molto, che penalizzano lo spettacolo. Insomma, è un discorso molto profondo che non può essere sbrigato così in fretta. Invece, Osama da Alessandria, buongiorno. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, dica. Yes. No, non la sento. Pronto? Faccio fatica, cioè, con quel nome un po' intimorito. Proviamo a richiamarlo. William invece da Cesena, buongiorno. Buongiorno Genta, sono in linea? Sì, è in linea, dica. Io non ho niente contro Bryant, però, e forse gliel'hanno già chiesto, ma ingaggiare un giocatore così per un tempo così breve non corrisponde alla solita mancanza di lungimiranza di noi italiani? Ma sì. Metto giù, mi risponde per radio? Sì, le rispondo per radio, certamente. La mancanza di lungimiranza sarebbe quella di precludersi l'arrivo di uno come di un giocatore, di una superstar mondiale di questo tipo per questioni di cortine. Questa sarebbe poca lungimiranza. Quanto invece alla possibilità di allenare una stella a tempo, te lo chiedo da allenatore, tu una stella a tempo la vorresti? Beh, dipende sempre dall'obiettivo che hai. Certo, se hai un obiettivo per vincere lo scudetto, per vincere o per arrivare in fondo allo scudetto, per arrivare in fondo all'Eurolega, allora hai una squadra, hai un progetto, hai un programma e quindi ti può creare qualche problema, non tanto il suo inserimento, ma quando il lavoro, il progetto, il programma di una stagione. Ma se non hai quell'obiettivo, allora è chiaro che puoi anche rischiare che quello che ti possa dare in termini di valore aggiunto della grande forza, magari lo puoi perdere a livello di organizzazione di squadra, a livello così, certo. Perché, io sentivo molti tuoi colleghi, anche Trinchieri, anche in parte Recalcati, sentivo molti dire: ma no, io preferisco allenare la mia squadra, non voglio giocatori anche se forti a tempo, perché alleno la pallacanestro, non alleno il circo dei media. Beh, insomma, ma sai, parliamo già, ecco, Cantù, cioè Cantù fa parte di quelle squadre che è da anni che lavora su un progetto, sì. È una squadra che deve fare l'Eurolega, può arrivare fino in fondo, perché ha costruito col lavoro e con la sapienza di mettere assieme i giocatori, pezzo per pezzo anche quest'anno hanno aggiunto qualcosa e hanno la legittima aspirazione di poter arrivare fino in fondo e giocarsela. Ecco, quindi Cantù come Milano, come Siena, io condivido, io sono allenatore, dico: no, abbiamo un progetto, andiamo avanti, cerchiamo di fare, no, che noi abbiamo costruito, ci abbiamo messo tanto tempo per costruire qualcosa, abbiamo un progetto, abbiamo un programma, abbiamo un obiettivo a lungo termine, ok. Ma tutte le altre non hanno obiettivo. Quindi anche Milano, cioè, Milano, da Siena, questo punto di vista, Gallinari a tempo a Milano non può essere un problema? Beh, ma è diverso, perché Danilo fa parte di Milano, Danilo è cresciuto a Milano, ha fatto bene a Milano, Danilo è un ragazzo che ci inserisce in due allenamenti, Danilo inserito, perché non è che ha altre diciamo disattenzioni, conosce il basket europeo, conosce il basket italiano, quindi è già uno che perché con due situazioni, due allenamenti è già inserito. Dopodiché lui, tu sai che lui è qua solo per giocare, per fare il bene di Milano, darebbe tutto se stesso, non è qua per fare del turismo come può essere magari Kobe Bryant, che può approfittare per salutare l'amico da un'altra parte e così via. Quindi Danilo è assolutamente diverso, però detto questo, in una realtà che non deve vincere il campionato, Kobe Bryant sarebbe una sfida affascinante, sarebbe una cosa affascinante anche per un allenatore. Ecco. Penso nella vita allenare anche per una settimana, 10 giorni, 15 giorni Kobe Bryant, ma insomma io sarei felice di poterlo raccontare. Hai parlato con Finelli? No. 800 24 00 24, numero verde tra l'altro tuo, Danilo Gallinari a Milano l'hai allenato, sai cosa esattamente, quali sono questi i meccanismi di cui, come funzionano i meccanismi di cui parlavi, poi ti chiedo anche come l'hai visto cambiato negli ultimi, da quando lo allenavi tu, non è passato un decennio, non sono pochi anni, però è un giocatore credo anche profondamente diverso in evoluzione, positivo o negativa poi me lo dici. Vediamo se riesco a parlare con Osama. Buongiorno, vediamo se la sento. Pronto, buongiorno. Buonasera a lei e al suo ospite. Dica. Senta, io volevo chiedervi, tralasciando un attimo il discorso di Kobe Bryant, che tipo di campionato andrà a fare secondo voi la Junior Casale quest'anno? Grazie. Sì, a lei. Beh, un campionato, essendo una neopromossa, un campionato di non semplice, però hanno dalla loro l'entusiasmo di una neopromossa, hanno una solidità data da questa grande accoppiata presidente Cerutti, Marco Crespi, sì. E quindi un'identità nel far la squadra, una squadra con caratteristiche molto fisiche, molto atletiche, una squadra con grande energia. Questa energia poi, se hanno anche la possibilità di giocare dalla prima partita a Casale Monferrato, esatto, quindi con l'ampliamento, ci sarebbe anche una grande empatia, una grande atmosfera lì, che potrebbero dargli quei punti necessari all'inizio per stare sereni e poi per durante l'anno crescere e arrivare a quel loro obiettivo, che sarebbe obiettivamente la salvezza. Sono due cose che mi piacciono moltissimo di Casale. Il primo, il fatto che hanno lo stesso allenatore dal 2006, ed è un caso, lo sai bene, no? Straordinario. E secondo, che per prima cosa, quando sono arrivati in Serie A, non hanno detto prendiamo questo americano o quell'altro, i giocatori vanno e vengono e c'è il mondo pieno. Hanno pensato subito, per prima cosa, a prepararsi il palazzetto in modo tale da poter debuttare in casa, cosa che probabilmente accadrà. Queste due cose sono quelle che rappresentano quasi una garanzia, secondo me. Hanno fatto passo per passo, da come dicevi tu, da 4-5 anni a questa parte, hanno passato momenti difficili, momenti di scoramento, momenti di, però hanno tenuto duro, hanno reagito, sono stati premiati. E poi dopo, insomma, Crespi è un allenatore che fa lavorare molto, che non fa le chiacchiere, ma è uno che sa il fatto suo ed è tornato in un campionato che gli compete, perché per obiettivamente, con tutto rispetto anche per la 2, Crespi era un lusso. Come per una notte, mi piacerebbe solo se la partita si giocasse il 21 dicembre 2012, oppure, non so, ho tanti messaggi di segno diversissimo, anche molto polemici, e poi li leggo. Io tifoso di Milano, questo non è polemico, io tifoso di Milano e Lakers, ho rischiato di tifare Bologna, è andata bene, scrive Marco. Se il Milan porta Messi a San Siro per una sera, tutto ok, no? Il basket è anche spettacolo, scrive Alberto. No, se il Milan porta Messi a San Siro per una notte, ci vanno in quattro a vederlo, perché il calcio è così, noi siamo così, abbiamo bisogno di sangue e arena, e sinceramente le amichevoli ci arrapano poco, anche se si chiama Messi o Kobe Bryant, e questo lo sapete molto bene anche voi. Felice da Roma, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare un pochino della Roma. Sì. Diciamo che questo derby io lo vedo abbastanza male, perché questo allenatore, Luis Enrique, è tanto stimato, ma a me sembra che ricordi un po' Josep Buonservizi del famoso film con Alberto Sordi. Insomma, in tutti i modi, sì. Io dico che in un bar dove io lavoro, qui vicino a casa mia, hanno parlato tanto che Emerson non era forte, che Samuel non era forte. che Cassano non era forte, che Cibo non era forte, questi giocatori che erano determinanti se ne sono andati. Sì, io speravo che col fa. Cambio di presidenza sarebbero rientrati, non sono rientrati. Ma a chi Emerson? Mi sa che ha smesso di giocare a calcio, possiamo anche richiamare. No, no, anche richiamare Pruzzo e Di Bartolomeo. Ancora in nazionale. Cassano è ancora in nazionale quando non si sfanculo con qualche giornalista e poi viene perdonato, che evidentemente vale, no? Vale tutto. Se sei Cassano, devi solo aspettare che gli parta la brocca e vedere qual è l'intervallo tra un embolo che parte e quell'altro. Ne farà rispondere da Valeria Bernardi, che è romanista in regia, ma non posso, qui siamo un po' fuori tema. Invece a Tidio Caia chiedo: ma questo mal di sport di Ibrahimovic, gli credi o non gli credi? Io gli credo, a me è molto simpatico Ibrahimovic. Ma devo dirti che ha fatto un discorso, cioè in pochi escono a dire: signori, prima mi divertivo, adesso mi diverto un po' meno, è un lavoro, vado lì, lo faccio, però se volete il mio cuore in questo momento penso ad altre cose. Cioè, ma a livello di dispendio di energie, non solo fisiche ma anche nervose, insomma, un campione è impegnato, un campione ha tantissimo dispendio di energie. Cioè, tra l'altro penso che devi sentirlo dentro, cioè deve essere... ti consuma, esatto. Ti consuma giorno per giorno, perché tu in quanto campione sei guardato da tutti, ogni partita devi farla al massimo, per fare al massimo ogni partita devi rendere al massimo ogni allenamento, quindi c'è anche un discorso di usura fisica, dopodiché, la gente ti guarda, si aspettano le vittorie, se vince è dovuto, se perdi ma con tutti i soldi che prende, perché c'è il populismo, esatto, poi c'è anche, quindi con tutto quello che prende si lamenta anche, quindi insomma voglio dire ci può stare, perché poi 5 giornali sportivi, tutte le televisioni che adesso in campo ti guardano tutto quello che dici, insomma è una cosa che ci può stare. Cioè, non dimentichiamo che anche Arrigo Sacchi, no? Certo. Arrigo Sacchi a un certo punto ha smesso di allenare dopo poco tempo. Io credo perché che livello, però bisogna essere nello sport e per capirle. Se esatto, non lo sei, esatto, fai del esatto, facile esatto, populismo, esatto, con quello esatto. Che guadagna, ma con quello che va, ma con quello che prende. No, invece ci sono altri meccanismi che non sono così semplici. Noi ci conosciamo da una trentina d'anni, ma io so bene che tu sei sempre stato ossessionato dalla parola. La canestro, ma come te tutti gli allenatori, tutti quelli che vogliono farlo sul serio, tutti gli sportivi professionisti vivono lo sport in qualche modo in maniera ossessiva, perché pensi a quello, sei calato in quello. Mi ricordo quando eri a Roma che mi dicevi dopo un anno che eri lì, la città non ho ancora visto perché c'ho gli allenamenti, quindi il senso è questo. Poi è difficile capirlo per chi è fuori guarda quello che fai sul campo e i soldi che prendi, poco altro, no? È facile, può essere troppo facile, però non è così, è un'analisi così semplicistica che si deve affrontare un problema, e quindi c'è da rispettare uno che ha coraggio e lo dice, invece a volte di lui si prende gli altri aspetti. Io devo dire che non avevo una grande opinione, così dopo questa intervista l'ho letto e l'ho rivalutato. Grande Palla Spicchi. Ecco che torniamo sempre con me, mio amico Attilio Caia, qui in studio, che mi diceva: oh, ma non abbiamo ancora parlato del campionato, e questo è vero. Lo facciamo subito anche con un altro ritorno immancabile, Flavio Tranquillo. Ciao Flavio, The Voice. Buongiorno a tutti. Allora, Attilio mi diceva: oh, ma non abbiamo ancora parlato del campionato, facciamolo insieme. Comincia tu. Che campionato vedi dietro, davanti a un sipario ancora abbassato per poche ore? Ma direi che vedo il campionato degli ultimi 2-3 anni con più possibilità per diciamo la squadra ai tre quarti, poi mi spiego, che può provare a inserire Siena, hanno più possibilità rispetto al solito, e sotto vedo una distanza abissale dall'alto livello, però una grande omogeneità di valore che potrebbe essere una cosa vendibile, se venisse mai venduta. Toglimi subito il dubbio, quel tre quarti è Milano, mentre no, la squadra... il tre quarti è Cantù e la squadra è Milano. Penso che sì, Milano è un elenco di nomi, secondo me, da Final Four di Eurolega, sì. Non li ho visti giocare assieme, quindi non so come si incastrano l'uno nell'altro, ma la lista dei nomi è assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Cantù vale il contrario, è appena sotto, però ha invece delle sinapsi tra i giocatori di altissimo livello, quindi penso che possiamo benissimo parlare di tre pretendenti. Discorso semplicistico, quindi un po' stupidotto, poi sentiamo anche l'opinione di Attilio Caia su questo ranking che hai fatto tu, però Flavio, discorso semplicistico e anche un po' stupidotto, guardando i roster con Danilo Gallinari, prima dicevo, beh, leggendo i nomi, che è sempre un gioco idiota, me ne rendo conto, Milano in questo momento mi sembra più forte di Siena. Ovviamente stiamo giocando con le figurine, A figurine è più forte senza Danilo, io ritengo, leggendo sempre le figurine. Però non giocano le figurine, abbiamo appena visto Siena giocare malissimo una Supercoppa e vincerla, perché sa come vincere. E quindi noi sappiamo che Siena questo ce l'ha, non possiamo sapere, non potremo saperlo per 3-4 mesi almeno, prima di verifiche un po' serie, se ce l'ha Milano o meno. Attilio? Beh, su le prime tre assolutamente d'accordo. E sulle altre io penso che ci vedo tre squadre che possono staccarsi dalle altre e che anche in certe partite possono essere vicino a queste, che sono Montegranaro, che sono Pesaro e che sono Bologna. E queste sono squadre che forse anche Roma, con un centro, anche Roma potrebbe essere, perché hanno preso giocatori di buon livello. Montegranaro ha preso un giocatore come McNeil che è veramente di grande livello, giocatori dalla panchina come Carl o Kirsey o Zorowski. Insomma, gioca una squadra veramente solida, anche con l'età giusta per un campionato, per essere già pronta per un campionato. Pesaro con White, secondo me il talento più forte del campionato, e Hickman e Jones, più tutto il gruppo di italiani da Hackett a Cusina, Cavaliero, a Flamini, può essere una squadra interessante, di grande talento. E la stessa Bologna, insomma, McIntyre, adesso è vero che magari non sarà ancora il McIntyre di Siena, però insomma parliamo di McIntyre 2 anni fa, Copone come guardia, questo Douglas è un giocatore estremamente interessante, Sanichidze, Homan e Gigli sono interessanti, quindi una squadra che secondo me, queste tre squadre sono diciamo un po' a metà strada tra le prime tre e quelle altre. Quindi vedi 3 più 3 più il Mare Magno. 3 più 3 e mezzo, anche a Roma, diciamo 3 più 3 e mezzo. Diciamo come Flavio, 3 quarti. Siamo sui 3 quarti. Flavio, voglio chiederti un paio di sensazioni invece. Che sensazione hai sul lockout NBA? Sensazione, Sensazione che vale veramente nulla, perché la situazione è che noi siamo all'esterno e quello che ci arriva è tutto falso e strumentale per definizione. Quindi, basandomi su questo paradosso, secondo me siamo più vicini di quanto non fossimo una settimana fa, e secondo me la soluzione non è lontanissima. Il problema è che una volta trovata la soluzione di massima, essendo lì abituati a scrivere con una certa precisione, poi ci vogliono delle settimane per scrivere materialmente e poi ci vogliono almeno un paio di settimane per fare un training camp compresso e almeno 3-4 amichevoli. Quindi nel momento in cui idealmente dovessero trovare l'accordo ci possono volere 5 settimane per dare un'idea. Secondo me, non dico che siamo a 5 settimane dall'inizio, però presumo che non siamo neanche a 25, per intenderci. Quindi una situazione a metà strada tra quella normale e quella del il precedente di fine anni 90. È così. Possibile. Anche se Attilio mi diceva, hai parlato con Danilo Gallinari stamattina, diceva che Denver ha 5 giocatori sotto contratto, no? Quindi si tratta di fare la squadra e poi di costruirla, giusto? Per quello sono le 5 settimane che parlava Flavio sono proprio in quell'ottica lì. Però l'accordo dovrebbe essere firmato domani, per poi avere queste 5 settimane e partire con un ritardo ragionevole. Un'ultima sensazione che ti chiedo, Flavio, avremo ovviamente tanto tempo per parlarne. Lasciando stare il lockout, un'Eurolega da paura, quella che abbiamo davanti quantomeno all'inizio. Sarà solo il trailer magari e poi il film sarà senza queste stelle qui, però... E Gallinari, e Rudy Fernandez, e Kirilenko, e forse Gasola a Barcellona, e magari anche qualcun altro. Beh, insomma, mi sembra tanta roba. Sì, mi sembra tanta roba, mi sembra una bellissima cosa, va vissuta nella maniera giusta, non nel senso che bisogna prepararsi psicologicamente per viverla, però va interpretata secondo me dicendo: vediamo da vicino giocatori che, pur conoscendo bene, possiamo cogliere delle cose che magari non ci ricordavamo o che magari, per chi non segue con continuità l'NBA, non abbiamo colto perché non li abbiamo visti. Abbiamo questa grande situazione che secondo me serve per incoraggiamento a fare i Gallinari, i Rudy e i Gasol di domani, che si possono fare sicuramente. Esatto, grazie Flavio, ci sentiamo domenica, eh? Un abbraccio a voi. Grazie Flavio, tranquillo, a domenica riprendiamo con ovviamente lo spazio dedicato al basket dalle 20.30 alle 21. Mi resta il tempo per salutare Attilio Caio, qui lascio la chiusura. C'era poi della parte di Montegranaro, c'è anche, abbiamo i due pavesi di Belleva circa, e quindi insomma qui noi giusto piantare la nostra bandiera, insomma, bandiera che sono della nostra città. Capitano e manager, e quindi insomma. Attilio, ci torni presto a trovarci, spero. Vediamo come evolve la situazione. Tanto buon campionato a voi. E anche a tutti i nostri ascoltatori, buon campionato. Vi aspetto per il basket. Beh, domani dalle 5 alle 6, come ogni sabato. Domenica non c'è campionato, ma noi ci siamo dalle 4 e mezza alle 7, quindi un sacco di tempo per parlare insieme di tutti i temi che volete. E poi domenica dalle 20.30 alle 21 torniamo con Palla Spicchi. Buona serata.